Falco e il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. A friend of mine and a friend of Chris Blackwell's called Tom Hayes. Un amico mio e di Chris Blackwell, di nome Tom Hayes, che era stato anche lui in cura per alcol e droghe, mi chiamò. E io iniziai a dirgli cose del tipo: andrò in una clinica a curarmi. E Tom, che conoscevo e stimavo, mi disse: guarda che la situazione è un po' più grave di come la dipingi tu. E improvvisamente mi sono sentita disarmata e ho risposto: hai ragione. Ricordo che mi disse: non ti preoccupare, sei una brava persona, starai bene. E penso che quella sia stata la prima volta che qualcuno mi ha detto una cosa simile. E mi sono sentita... ho sentito che sarei stata bene. And I felt like I would be alright. Questa è la voce di una grandissima icona degli anni 60. È un personaggio simbolo della Swinging London. Ha sangue nobile e un animo rock. Si chiama Marianne Faithfull. È una donna che ha vissuto gli eccessi del rock and roll, ha vissuto una relazione turbolenta con Mick Jagger e praticamente con tutti i Rolling Stones. È caduta nel mondo della droga, dell'anoressia, si è rialzata con il potere della sua voce. E oggi, 50 anni dopo, è ancora protagonista, è uno dei volti del cinema contemporaneo. Nella sua vita così travolgente è passata anche dall'Italia. Era già una star internazionale quando è salita sul palco di Sanremo nel 67. In tempi molto più recenti l'abbiamo vista sul set di Sofia Coppola in Maria Antonietta. È protagonista di una meravigliosa pellicola. Il film si chiama Irina Palm e Marianne Faithfull interpreta una signora di mezza età che si trova costretta a lavorare in un locale a luci rosse. Una film veramente poetico e ironico, dove lei è gigantesca. Negli anni 60 Marianne Faithfull è la ragazza più amata del Regno Unito. La desiderano tutti gli uomini. Lei è bella, molto bella, ha un sorriso spiazzante. Le donne la imitano, desiderano essere come lei, biondissima e magnetica. Marianne Faithfull nasce a Hampstead il 29 dicembre del 1946. Suo padre è Robert Glyn Faithfull, è un maggiore dell'esercito britannico di famiglia alto borghese. Conosce tutte le lingue europee, dal tedesco al russo. È una spia e quindi deve anche parlare senza alcun accento. Mio padre è sempre stato un grande idealista. Era un uomo che voleva cambiare il mondo, dice lei. Sua madre invece è una ex ballerina viennese. Si chiama Eva von Sacher-Masoch. Proprio Masoch. Infatti il suo prozio è proprio Leopold von Sacher-Masoch, il nobile austriaco del XIX secolo, il cui romanzo erotico Venus in Furs ha generato la parola masochismo. La madre è una contessa, discende dall'impero austro-ungarico. La sua famiglia combatte segretamente i nazisti. A lei piace il fatto di essere erede, in qualche modo, di un uomo così particolare come il suo prozio Masoch. Lo ha detto anche recentemente, nel 2007, a Budapest: è bello essere qui perché sono mezzo inglese e mezzo austro-ungarica. Ho ereditato il titolo di baronessa Sacher-Masoch. Viene da uno dei miei prozii, che ha dato il suo nome al masochismo. I genitori di Marianne sono una coppia piuttosto stravagante e infatti si separano poco tempo dopo la nascita della bambina. Ed è proprio dopo il divorzio dei due che Marianne e la madre si trasferiscono a Londra. Mamma Eva la iscrive a una scuola all'interno di un convento nel quartiere di Brixton, il St. Joseph. È una scuola cattolica femminile. Forse la madre aveva capito il temperamento della figlia, forse voleva metterla al riparo dal mondo esterno, ma in genere in questi casi si ottiene l'effetto contrario. Marianne non è mai stata una credente e quelle premure materne si sono frantumate molto presto. Le sue compagne di scuola raccontano di una ragazzina che già a 11 anni era fuori dagli schemi. Una sua vecchia amica disse: Marianne ha provato a essere brava e virtuosa, ma ha fallito miseramente la missione. Era troppo bella, troppo appariscente. Andavamo sul fiume a cantare con le chitarre e lei aveva una voce incredibile, impossibile da non notare. Insomma, già da bambina si sapeva che non sarebbe rimasta nell'ombra. E infatti è rimasta nell'ombra ancora poco tempo. È il 1964, Andrew Oldham, il leggendario manager dei Rolling Stone, vede questo angelo biondo a una festa. Lei è fidanzata con John Dunbar, studente delle belle arti, che commette l'errore, dal suo punto di vista, di introdurla nel mondo artistico londinese. Andrew Oldham chiede a un amico chi sia quella ragazza dallo sguardo carismatico e chiede se per caso questa ragazza sa anche cantare. Lei è in jeans e t-shirts, ha solo 16 anni e sa cantare. E anche molto bene. Una settimana dopo le arriva un telegramma a casa: presentati agli Olympic Studios alle 14 in punto. Andrew. È proprio Andrew a chiudere Mick Jagger e Keith Richards in una cucina e a intimare loro di scrivere una canzone che andasse oltre i muri e dove non ci fosse sesso. In due ore, Jagger e Richards scrivono per lei una canzone semplice che ha un enorme successo e che lancia la carriera di Marianne Faithfull. La canzone è As Tears Go By. It is the evening of the day. I sit and watch the children play. Smiling faces I can see, but not for me. I sit and watch as tears go by. Io sono seduto e guardo mentre le lacrime scorrono giù. As Tears Go By, un meraviglioso episodio musicale di Jagger e Richards, scritto per Marianne Faithfull. È una storia molto semplice dove la protagonista, forse da una finestra, guarda giocare alcuni bambini felici mentre lei ripensa all'infanzia passata e perduta, piangendo seduta. Io credo che il volto di Marianne Faithfull li abbia ispirati, e molto bene. Con questo brano, che è il primo scritto dai due membri principali dei Rolling Stones, Marianne Faithfull diviene una star, lascia la scuola e nell'estate del 65 entra nella top 10 del Regno Unito. Quella stessa canzone verrà registrata anche dai Rolling Stones e poi inclusa nella versione del nuovo album December's Children, pubblicato negli Stati Uniti. Insomma, un brano immortale che avrà diverse vite. My riches can't buy everything. I want to hear the children sing. All I hear is the sound of rain falling on the ground. Ma intanto Marianne corona il suo sogno di cantante e per lei inizia una nuova era. Lascia la sua vecchia casa, esce dalla vita di sua madre e ne comincia una nuova, tutta sua. Colleziona singoli e album, intraprende anche la carriera di attrice cinematografica e teatrale. Tra i film Girl on a Motorcycle del 68, a teatro con Chekhov, Le tre sorelle e Hamlet nel 1969. Una carriera folgorante che si arresterà alla fine degli anni 60 per problemi personali e di droga. Una carriera che verrà ripresa molti anni dopo. Ma questi sono gli anni dei Rolling Stones, le luci sono puntate su di loro e Marianne vive all'interno di questo scenario con una storia con il chitarrista Brian Jones. Poi trascorre una notte di passione con Keith Richards in una stanza di hotel, ma quello che si innamora pazzamente di lei è proprio il leader, il frontman, Mick Jagger. Lei è un mix incredibile tra una educanda e una pop star. Lui la corteggia e lei alla fine cede. Siamo nel 1966. Marianne sceglie uno degli Stones e naturalmente chi ne ha la peggio è il marito, John Dunbar, sposato solo l'anno prima e da cui Marianne ha avuto un figlio, Nicholas, che ha solo pochi mesi. Ma ora per John Dunbar non c'è più posto, perché lei è la fidanzata di Mick Jagger. In un primo momento quella vita a Marianne sembra fantastica, è uno stato di grazia. Marianne è giovane, ricca e bella, però vive tra droga, musica, glamour con Jagger, il condannato Brian Jones e il cupo intrigante Keith Richards. C'è anche l'affascinante e ipnotica Anita Pallenberg, che diventerà una delle sue grandi amici e una sciagurata moglie di Keith Richards, che ne parla molto nella sua ultima biografia. Quella ragazza dalla splendida voce vive da ribelle, si gode la trasgressione tra musica e successo in un cocktail che comprende stupefacenti, alcol e sesso. Rock and roll is sex. Il rock and roll è sesso. Il sesso è il motore del rock and roll. Ed è affascinante come nasca questo connubio che non è così insolito. Non è qualcosa di artefatto. So it's not acted on, you see. You see, yes. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia della leggendaria Marianne Faithfull, dai Rolling Stones alla droga fino alla grande rinascita degli ultimi anni. Siamo arrivati al 1967, lei è una star internazionale molto controversa, ma in quei festival di Sanremo chiamano proprio le grandi star e lei si presenta nel gennaio 67 in un Sanremo condotto da Mike Buongiorno, dove Claudio Villa e Iva Zanicchi vinsero con Non pensare a me, un titolo quasi crudele, tenuto conto che quella era l'edizione nella quale si tolse la vita Luigi Tenco. Ma Marianne Faithfull non sa nulla di tutto ciò. Si presenta con Ricky Maiocchi, un cantante allora famoso, ex frontman dei Camaleonti, con una canzone che verrà eliminata al primo turno. Il brano si chiamava C'è chi spera. Quando porta le spalle al bene e lottano tutti come iene, ma quando finisce il giorno e si fa sera, c'è chi spera. Quella giovane donna dalla frangetta sbarazzina continua a fare parlare di sé, vive storie saffiche, le condivide e le sperimenta con Mick Jagger, ma poi arriva un giorno particolare che segnerà una delle svolte della sua vita, il punto di caduta. Siamo alla fine del febbraio 1967, qui le cose succedono di mese in mese. Sono le 8 del mattino, una ventina di agenti si trovano alla porta della lussuosa residenza a Redlands di Keith Richards. Siamo nella campagna inglese, è arrivata una soffiata, il tabloid News of the World è pronto a scrivere la prima pagina. Bussano. Dall'altra parte ci sono Mick, Marianne, George Harrison e sua moglie Patty. Personaggi eccentrici e un uomo misterioso con una valigetta piena zeppa di ogni tipo di sostanza stupefacente: anfetamine, eroina, cocaina, LSD, diversi allucinogeni. La tenuta di Richards è illuminata, ma da ore scorrono fiumi di droghe e alcol e dentro ci sono tutti, strafatti. Marianne è al piano superiore. Appena fatto il bagno per cercare di smaltire una delle tante sbornie di quei giorni. È nuda e ha addosso solo una coperta di pelliccia rossiccia. È sdraiata sul divano. Keith Richards sta mangiando una barretta di Mars in mezzo alle sue gambe. Quella scena, mai confermata ufficialmente, entra nella storia del rock come la leggenda del Mars Bar Incident, l'incidente della barretta di Mars. Il falco e il gabbiano. Now L'incidente di percorso è una crepa molto profonda nella loro storia. Intanto arriva il 1968, Marianne rimane incinta ma perde la bimba. Con Jagger e Richards quell'anno scrive un singolo dal titolo molto esplicativo, Sister Morphine, sorella morfina. Darà vita a una battaglia legale per poter avere i diritti di quella canzone. In un'intervista alla BBC, quando già tutti la vogliono, Marianne racconta il suo rapporto con la droga, da cui in realtà uscirà solo moltissimi anni dopo. I never wanted to talk about drugs in public. Non ho mai voluto parlare di droghe pubblicamente perché non volevo influenzare nessuno. Ma se mi viene chiesto, non posso che rispondere che ovviamente ho assunto droghe, come chiunque. Everyone. But not because of it. Il problema è che le persone le considerano come un paradigma del paradiso o dell'inferno. Invece le droghe sono le porte che fanno entrare le percezioni. Non ti portano da nessuna parte. Aprono solo una fessura attraverso la quale ti permettono di guardare. E credo che sia sicuro, non ti fa del male. Non è da ingordi assumere droghe, perché allora lo sarebbe qualsiasi cosa. Come le sigarette, l'alcol o la marijuana. Se non ce ne fosse stato bisogno, le droghe non sarebbero state inventate. Conosco un sacco di gente che grazie alle droghe ha avuto un'apertura mentale e poi ha smesso. Quasi tutti alla fine hanno smesso con l'LSD, me compresa. Beh, in realtà hanno smesso quelli che hanno fatto a tempo a smettere da vivi. Nel dicembre 68 Jagger e Richard scrivono una canzone che diventerà leggendaria come tante. È la traccia iniziale dell'album Beggar's Banquet del 1968. La canzone si chiama Sympathy for the Devil. Anche in questa canzone, dove il diavolo, Lucifero, parla in prima persona, c'è Marianne Faithfull. Tra l'altro il testo ha lo stesso incipit del romanzo di Bulgakov, Il maestro e Margherita, e combinazione Marianne Faithfull l'ha regalato poco tempo prima al molto ricettivo Mick Jagger. La relazione con Mick Jagger comunque arriva agli sgoccioli. Ci sono stati anni turbolenti, profonde gelosie, storie parallele, processi penali, dipendenze, schermaglie. Siamo al capolinea. Lei frequenta un italiano, il pittore Mario Schifano. Siamo nel maggio 1970. La storia con Mick, quell'uomo che l'ha tanto amata, anche se a modo suo, l'unico che poteva chiamarla Marian, finisce male e quella rottura la porta a toccare il fondo e loro due non si parleranno per 35 anni. Intanto Marianne perde la custodia di suo figlio e sempre in quell'anno tenta il suicidio con un'overdose. Tutto va in tilt, tutto va a rotoli, vita e carriera. Pensate che Marianne in quel momento ha solo 24 anni. Va a vivere per strada con i senza tetto, a Soho. È anoressica, è un'eroinomane, una tossica come tanti che si vedono in giro in quel periodo a Londra. Eppure il diavolo non l'ha ancora presa con sé. Non è ancora arrivato il suo momento. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la leggendaria epopea di Marianne Faithfull. Donna meravigliosa che ha conosciuto la storia negli anni 60 a fianco dei Rolling Stones, però ha conosciuto anche una discesa all'inferno veramente repentina. L'abbiamo lasciata per le strade di Londra, magrissima e tossicodipendente. Prova a risalire, ma è difficile uscire dall'abisso della droga. È un passo dalla morte, lo ammetterà lei stessa più tardi. Alla vita vera si torna lentamente. As I started to get back into recording, appena sono tornata a registrare ho pensato, sarà molto imbarazzante. Se faccio questa vita e se la gente per identificarmi mi colloca in categorie che non hanno nulla a che vedere con me, cosa cambierebbe se lo facessi da sola e se mettessi tutta me stessa in un disco che mi rappresenti? A record that is going to express me. È proprio l'album Broken English a segnare dopo una lunga assenza il ritorno sulle scene di Marianne Faithfull. È un album meraviglioso che vi consiglio. Siamo nel 79, il mondo della musica è ribaltato dall'arrivo del punk, eppure Marianne Faithfull del punk è allo stesso tempo musa, ispiratrice, ma anche assolutamente in linea con quello che sta succedendo. È un disco perfetto, infatti è un grandissimo successo, e in quell'anno Marianne sposa Ben Brierly, che peraltro è un membro dei Vibrators, una band punk il cui cantante era Knox, quello con gli occhiali bianchi. La sua voce è molto diversa, è rauca, è profonda, è segnata da una brutta laringite e da anni di fumo, alcol e droga. Forse per quello è una voce così interessante. Si trasferisce a New York, ma fatica a chiudere con l'eroina e tenta nuovamente il suicidio. A metà degli anni Ottanta riprova a uscirne e si ricovera in una clinica in Minnesota e poi in Massachusetts. È ancora sposata con Brierly, ma intanto inizia una relazione con Howard Toews, un altro tossicodipendente. Più tardi quest'uomo si getterà dalla finestra del loro appartamento al 14° piano. Nell'87 divorzia dal marito e dedicherà al compagno scomparso l'album Strange Weather. E sempre della morte di Toews parla il brano Flaming September, tratto dall'album Secret Life. September lives in flame. The sisters dancing, no happy ending to the game. Don't bother to call me. Think I'll stay here just the same. Un anno dopo Marianne Faithfull si sposa di nuovo. Stavolta è il turno di uno scrittore americano, Giorgio della Terza, da cui divorzierà solo pochi anni dopo, nel 1991. In quell'anno esce il film Thelma e Louise di Ridley Scott e nella pellicola c'è una altra meravigliosa canzone di Marianne. La canzone si chiama The Ballad of Lucy Jordan. Lightly on the eyes of Lucy Jordan in a white suburban bedroom in a white suburban town. As she lay there neath the covers, dreaming of a thousand lovers, till the world turned to orange and the room went spinning round. Seguono anni in cui Marianne diventa pulita, vive una vita bohémienne tra Parigi e la contea di Waterford, in Irlanda. Riprende i rapporti con il figlio Nicholas e sforna altri album, a tutt'oggi sono una ventina. Viene coccolata da tutti gli astri della nouvelle vague anglo-americana, artisti come Billy Corgan, Beck, Pulp, i Blur, e poi PJ Harvey, Nick Cave, Damon Albarn e John Bryan. Per il suo 17° album Before the Poison del 2004 ci sono tutti, e nel 2014 celebra il 50° anniversario della sua carriera musicale pubblicando uno dei suoi dischi migliori fino ad oggi, Give Me Love to London. Hated by all and everywhere he goes, blazing contempt for human life and lies. murderous heart, and what he knows from life and fear in other people's eyes. Crazy love is all around me. Love is crazy, love is kind, but I know somehow you'll find me. Love is crazy, love is blind. Il nuovo millennio si inaugura con un periodo di rinnovato vigore creativo che vede Marianne tornare alla sua carriera di attrice, sia a teatro sia al cinema, con interpretazioni nel film Intimacy del 2001 e in Maria Antonietta di Sofia Coppola, film del 2006. Qui interpreta l'imperatrice Maria Teresa d'Austria, madre della leggendaria Maria Antonietta, promessa sposa di re Luigi XVI e regina adolescente. D'altra parte, Marianne era di sangue blu. Nel 2006 Marianne Faithfull conquista il ruolo da protagonista in Irina Palm e per questo viene candidata all'EFA come migliore attrice. Ormai donna di mezza età, sempre con la sigaretta in bocca, la Faithfull interpreta una nonna che ha bisogno di soldi per comprare le medicine al nipotino malato. Scopre il modo per fare soldi nascondendo un segreto che rivela durante un tè con le amiche, in una meravigliosa scena. Credo che qualcuno abbia un piccolo segreto. Vuota il sacco, Maggie. Ma insomma, in fondo si tratta di te e non deve essere particolarmente interessante. Faccio le seghe agli uomini. Seghe? Masturbazione? Tu masturbi gli uomini. Per voi è abbastanza interessante? Perché? Per soldi. Non voglio intromettermi, Maggie, ma come se... Non che siano affari che ci riguardano, certo, ma come... Come fai a... Beh, gli uomini arrivano e infilano il loro pisello all'interno di un buco in una parete. Io gli faccio una sega, loro vengono, fine della storia. Mickey dice che ho la miglior mano destra di Londra. Mickey? Il manager. Sono Irina Palm. Sono la migliore. Servizi speciali in un locale a luci rosse, nascosta da un muro che non fa conoscere la sua identità. In un meraviglioso film, comunque, Marianne Faithfull riesce a mantenere vivo quel filo rosso che la lega al sesso e alla trasgressione. Una vita piena di aneddoti, di amicizie, di brutte cadute, successi, crolli e risalite. Così, dopo aver sconfitto anche un tumore al seno, nel 2007 Marianne pubblica un secondo libro di memorie che fa emergere il lato più personale della sua vita. Il libro si chiama Memories, Dreams and Reflections. Qui racconta tutto con onestà, umorismo, sarcasmo, nessun vittimismo e ironia e nostalgia. Gli anni 70 sono stati fantastici per molte persone, ma non per tutti. Per me sono stati un periodo difficile, ma sono andata avanti. Ho inciso l'album Broken English e le cose sono andate un po' meglio. Non ho mai creduto nell'estate dell'amore. È stata un'invenzione dei media, come Carnaby Street. It's all made up, you know? Credo che obiettivamente ci sia stata una caduta rovinosa per alcuni di noi dopo gli anni 60. Eravamo saliti così in alto e per forza siamo caduti così in basso. Per alcune persone è stata la fine. Io sono stata molto fortunata. Una donna fortunata che ama, si butta, inciampa, cade e si rialza. Questa è Marianne Faithfull. E oggi più che mai è lei stessa la prima a dire di aver commesso degli errori, riconoscendo che in molti casi avrebbe dovuto e potuto fare meglio, agire diversamente, primo tra tutti il suo rapporto durato decenni con la droga. Abbiamo scelto un testimone di quegli anni, uno che col rock ha una certa dimestichezza, e non solo col rock, Eugenio Finardi. Tu, Eugenio, eri al concerto dei Rolling Stones di Milano nel 1967, eri un bambino praticamente. Eh beh, sì, avevo dunque 67, avevo 15 anni. Ah, e cosa ti ricordi? Cioè, cosa ci puoi dire dell'aria che si respirava in quegli anni, in quella Milano? Quanto eravamo simili ai ragazzi inglesi e quanto eravamo diversi. Non eravamo poi così diversi, eravamo una generazione che, la prima generazione che pensava di essere radicalmente diversa dai suoi genitori, ecco. Quindi i Rolling Stones non erano solo un gruppo musicale, erano un modo di vivere, erano il portabandiere, il vessillo del nuovo mondo che sarebbe venuto, e che in realtà è venuto. È venuto. Cambiato. Noi stiamo parlando di Marianne Faithfull, no? Quindi come erano diverse le donne che si accompagnavano ai musicisti in quegli anni rispetto a quelle che seguono le star oggi, no? Le arrampicatrici sociali di oggi. Allora diciamo che le donne erano, appunto, se si era ancora all'inizio del femminismo, forse le donne pagavano più caro degli uomini gli esperimenti di vivere una vita alternativa, diversa. Era da considerare che erano proprio i primi anni della minigonna, si usciva veramente dalla donna anni 50 con le gonne larghe, capito, la mamma. Ma erano anche delle muse, eh? Marianne Faithfull era una leggenda, un'altra era Anita Ballenberg, la storica donna di Keith Richards, che era veramente una donna rock straordinaria. Marianne era un'icona, forse troppo famosa per essere la donna di Mick Jagger, per essere rispettata per quello che poi ha fatto, invece è stato degnissimo, cioè era un artista, è un artista completa, e devo dire che alla fine ha dimostrato di essere anche una donna con le palle, perché è riuscita a tirarsi fuori da tante situazioni, però diciamo che l'ha pagato caro, la vicinanza con le star di quell'epoca tendeva a bruciare. Grazie Eugenio, sei stato preziosissimo, ma non ne dubitavo. Grazie a te Enrico. Una donna più debole e meno fortunata di Marianne Faithfull avrebbe potuto rimanere uccisa da tutto quello che ha attraversato. Forse per questo la sua caduta e la sua ascesa hanno appassionato gli amanti del rock and roll, la sua leggenda. Queste sono storie di chi ci è riuscito, di chi ha tentato, di chi ha avuto cadute e di chi è risalito, perché ognuno di noi nella sua vita può rischiare di cadere, ma può anche dare il colpo d'ala che lo porta in alto, come il falco o come il gabbiano. Se volete mandarci i vostri commenti o segnalarci vite che vale la pena di raccontare e far conoscere, scriveteci. Scrivetemi al falco il gabbiano, @radio24.it. A domani. Jenny's hate and breaking heart sure makes a lonesome sound. Il falco e il gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Francesca Del Rosso.